uno astensionista che aveva preso quella spinta forte nelle seconde metà degli anni Ottanta. Lo stesso risultato di settimana scorsa, in un certo senso, quello sul referendum, andava contro queste tese. Ecco, qui abbiamo una ripresa di questo fenomeno. In effetti questo sì può essere letto in continuità con quelle interpretazioni di protesta. Può darsi che ci sia un'accentuazione di quel fenomeno di distacco dai partiti che in parte è stato intercettato appunto da queste nuove tendenze, come nuove organizzazioni politiche, come la rete, in parte è andato avanti, diciamo, sulla strada dell'astensionismo, e quindi questo in un certo senso può essere letto anche come un auspicio positivo, nel senso che il serbatoio di voti disponibili per nuove proposte alternative alle tradizionali sta continuamente crescendo, quindi potrebbe anche essere visto con questa ottica positiva invece che con quella negativa. Su quei piccoli peccati per cui si dice che non si va dall'inferno, però forse ci si va, questo non lo sappiamo. È una canzone moralista, ma io credo che fra il moralismo e l'immoralità oggi sia meglio scegliere comunque il moralismo. Si chiama Dr. Doberman. Dal concerto live di Francesco De Gregori sentiamo Dottor Doberman, la storia di un medico obiettore che si rifiutava di fare gli aborti legalmente, però li faceva privatamente. Questo per annunciarvi che questa sera alle 23 Radio Popolare manderà in onda la prima parte del concerto, del recente concerto milanese di Francesco De Gregori. Alle ore 23. $6,500,000 e tua moglie vive come una regina. Anche se mi vedete di rado, lei arriva a letto quasi sempre di mattina. E tu ti sei già alzato, qual è il prezzo, qual è il prezzo, torna per me. Il prezzo che va pagato per le cose che mi seccano a fare in pubblico, per non ti rendono un bene privato. Tanti soldi e poche tasse che non c'è scandalo. De Gregori in concerto dalle onde di Radio Popolare questa sera alle 23, la prima parte del concerto live. La tua tana sta in collina, dottor Doberman. $6,500,000 sembra quasi una regina, però è la moglie di un ladro. Se sei buono andrai all'inferno, e dobbiamo lasciare Francesco De Gregori perché il tempo fugge e facciamo un salto nell'aria di Sanremo prima maniera. Manila Pizzi ha fatto impazzire un sacco di gente. È stata veramente un mito della canzone italiana, un mito del costume italiano, un mito in qualche modo della cultura italiana, se per cultura si intende tutto ciò che non è letterario, librario o di studio, ma che è di profonda incisione, di profondo contenuto di costumi, di civiltà proprio. Sandro Avanzo ieri sera al Carcano, in mezzo a una gran ressa, mi sembra di capire. Beh, la ressa era anche il meno, devo dire, perché... C'è tanta gente. Il teatro strapieno, anche perché era stata fatta una sorta di pubblicità abbastanza errata, ovvero l'organizzazione è stata un po' improvvisata e ridotta all'ultimo momento. Per cui su molti giornali, su molti quotidiani era apparsa la notizia che il concerto era gratuito e che l'ingresso era libero, il che non era in effetti vero, in quanto per accedere occorreva avere un invito particolare distribuito da alcune radio milanesi, nonché da Rete A. Per cui l'afflusso di folle è stato veramente incredibile. Lo spettacolo cominciava alle 9, alle 8 e mezza il teatro era già strapieno. E fuori c'erano persone che si accalcavano all'ingresso, naturalmente venivano respinte perché non c'era posto all'interno del teatro, e addirittura è stato organizzato un servizio d'ordine, di ordine pubblico per respingere le persone che arrivavano, che naturalmente erano senza biglietto. Per darvi un attimo l'idea della cosa, ci sono stati dei pullman addirittura organizzati dalla Brianza, pagati dagli stessi partecipanti al pullman e quindi spettatori per lo spettacolo, che sono appunto scesi a Milano per venire a vedere questo grande evento della canzone italiana. Età media? 60 anni direi, proprio dai 60 in su. Infatti, così scherzando con alcuni colleghi giornalisti, stavamo dicendo siamo proprio in una situazione di under 60, pardon, over 60. E beh, insomma, giustamente. Giustamente. La cosa più straordinaria, veramente palpabile, era l'atmosfera del concerto. Pensate ad un concerto rock, la stessa identica cosa, la stessa voglia di stare assieme, la stessa voglia di sentire il grande divo, la stessa voglia di partecipare ad un evento collettivo. Soltanto che guardarsi attorno e uno vedeva molti capelli bianchi anziché vedere zainetti e spinelli. Ma la vitalità c'era. La vitalità sicuramente c'era. Allora guarda, mi confermi una sensazione che ho avuto spesso, che gli anziani a volte sono molto più vivaci, molto più propositivi dei giovani. Molto spesso hanno voglia di vivere, giustamente. Sì. Senti, oltre a Nilla Pizzi chi c'era? C'erano un po' tutti. Adesso almeno l'elenco delle persone che hanno partecipato come sul palcoscenico bisogna che ve lo faccia, perché tutta la canzone italiana fino agli anni 60 era presente ieri sera sul palcoscenico appunto del Carcano. Allora, ha cominciato Achille Togliani, poi il duo Fasano, Carla Boni, Gino Latilla, la grande Pizzi, la Tonina Torielli, Giorgio Consolini, il maestro Carlo Alberto Rossi, Flo Sandos, Narciso Parigi, Betty Curtis, Gio Sentieri, Vilma De Angelis, Arturo Testa, Miranda Martino e in chiusura una grande del cabaret milanese, Ofelia. Beh, io ho il ricordo di questi nomi perché da piccola vedevo il Festival di Sanremo. Credo che tutte le persone che hanno più o meno la nostra età, ricordo benissimo 35 anni, i nomi, ma non ricordo bene i volti o le voci. Le voci, certo. Certo, comunque sono state veramente le persone che hanno fatto grande la canzone italiana. E ieri sera hanno cantato tutti quanti? diciamo che si sono esibiti tutti, perché quasi tutti erano in playback, cosa stranissima e in certi momenti addirittura imbarazzante, perché ad esempio quando ha cantato il duo Fasano si sentiva in maniera evidentissimo il frusciare del disco, con la puntina che a un certo punto addirittura saltato. Questo per dare un'idea della cosa. E veramente era uno spettacolo monstrum in questo senso, anche perché le incisioni che venivano usate come basi per il playback erano le incisioni di 30 anni fa. Quindi sentire Narciso Parigi oggi, quasi settantenne, che ha un'estensione vocale enorme, fa degli acuti incredibili, e vedere invece questa persona già anziana, che pur con disinvoltura però si muove con un certo, non più con la fluidità di un tempo sul palco, faceva una certa impressione, proprio una sorta di mostro fisico che aveva un corpo e una voce differente. E mi piacerebbe avere più tempo, ma veramente i minuti stanno scappando. No, tu stai calmo, raccontaci con calma. Per potervi raccontare ad esempio le toilette delle grandi dive, che si sono veramente sbizzarrite all'infinito. Si andava dall'optical del duo Fasano, delle sorelle Fasano, alla tutina nera di Nilla Pizzi, che era coperta da una casacca di seta con tutti i colori dell'Arlecchino, le losanghe ad Arlecchino, la Carla Boni invece in un completo verde, un verde pisello, sopra una maglia, chiamiamola maglia, sì, di paillette colorate sul rosa e sul verde, e al gessato di alcuni cantanti, al frac bianco di, pardon, allo smoking bianco di Gio Sentieri, e così via. Insomma, era proprio un gusto nel farsi vedere attuali, anche se legati a quello che era la loro immagine di un tempo. Le pettinature delle donne mi incuriosiscono, perché penso che il modo di acconciarsi i capelli è molto legato alle epoche, sì, soprattutto per le donne. Però ecco, non pensiamo alle pettinature anni 50 e 60, pettinature molto, molto attuali, molto più moderne, sì, decisamente. Sempre tra i vestiti molto eleganti, molto appariscenti, quello di Miranda Martino, che aveva un vestito di paillette nere, molto molto appariscente, molto elegante, come di paillette era vestita anche Flo Sandos, una sorta di geometria di paillette nere e argento, molto, molto lineare, però di grande, grande effetto e di grande classe, come è stata anche l'interpretazione di Flo Sandos. Ci terrei, più per dovere di cronaca e nel medesimo tempo anche per rendere merito alle persone che hanno cantato dal vivo, a citare i nomi delle persone che hanno cantato veramente per gli spettatori con la voce che si ritrovano oggi, quindi senza l'imbarazzo e senza le reticenze di chi invece ha usato il playback. Hanno cantato dal vivo Carla Boni, che ha avuto un successo incredibile di pubblico, ha cantato dal vivo Gino Latilla, ancora dal vivo il maestro Carlo Alberto Rossi, Flo Sandos, Vilma De Angelis e Gio Sentieri, nonché Arturo Testa. Ma gli altri hanno preferito il playback per paura? Perché la loro voce è cambiata? Secondo me per organizzazione. Nel senso che l'organizzazione ci teneva ad avere tutti i cantanti possibili presenti a questa manifestazione. Molti di loro, come ad esempio il duo Fasano, appunto si sono ritirati da tempo, anche la Torino Torielli si è ritirata da tempo dal panorama musicale. E pur di averli presenti, l'organizzazione deve aver proposto una canzone anche su disco. Per cui quello che diventava necessario era il personaggio fisico davanti al pubblico e niente di più. È stato anche un momento molto divertente in questo senso, in quanto la Torielli, nella sua semplicità e nella sua schiettezza di sempre, che l'hanno caratterizzata fin da quando si presentò al concorso per Voci Nuove e disse tranquillamente davanti all'auditorium: io sono un'operaia, sono qui come operaia, di fronte invece a laureata, ragioniere, eccetera, eccetera, e già in quell'occasione ottenne un successo proprio di simpatia del pubblico. Anche in questa occasione lei voleva cantare, ovvero non cantare, senza il microfono in mano. Invece è arrivato subito il presentatore, mettendole di forza il microfono in mano, per non far capire a chi eventualmente non l'avesse capito che la cosa era in playback. Chi sentiamo, Sandro? Sentiamo la Carla Boni. Dal vivo. Dal vivo questa, certo. Mm. Canzone te lo ricordi? Ormai in papà, naturalmente, che la Carla Boni ha dedicato al maestro cinico Angelini, suo scopritore e in qualche modo anche suo padre affettivo e in qualche modo putativo. Non sono mancate naturalmente ieri sera anche le liti tra prime donne. Liti addirittura? Non proprio liti, ma battibecchi, ma punzecchiature, forse su punta di fioretto. Ma questo sul palcoscenico? Sul palcoscenico, naturalmente, mi sembra ovvio. Raccontacene una, Sandro. Alla Nilla Pizzi è stata portata, come riconoscimento, una coppa alta 80-90 centimetri, veramente una coppa enorme, mentre alla Carla Boni è stata data una coppa molto più piccola. Allo stesso tempo è stato dato un premio, una sorta di grande... Beh, non sono stati molto carini gli organizzatori. No, è una delle altre manchevolezze degli organizzatori. Nel medesimo tempo hanno portato una coppa molto grande, molto larga e con un piedistallo molto basso, invece, per l'organizzazione che aveva appunto preparato questa serata, in memoria appunto proprio di Cinico Angelini. E a questo punto Carla Boni si è impossessata di un microfono e ha detto: ma non sono molto d'accordo con queste coppe, perché a dire la verità io avrei preferito avere tutte e due le coppe grandi, una quella della Pizzi perché mi sarebbe servita da porta ombrelli e l'altra perché avevo proprio bisogno di una fruttiera da mettere al centro tavola, e suscitando naturalmente l'ilarità e gli applausi un po' di tutto il pubblico presente. La Pizzi ha incassato e si è rifatta alla fine dello spettacolo dicendo, tra la confusione generale e in modo tale che il pubblico più potesse sentirla nonostante le voci che oramai invadevano la sala, il pubblico stava già scemando, eccetera, invitava tutto quanto il pubblico allo spettacolo che terrà domenica prossima pomeriggio all'Idroscalo, e si sentiva la Pizzi che gridava a viva voce: venite all'Idroscalo domenica allo spettacolo domenica all'Idroscalo. Speriamo che non canti in playback anche l'Idroscalo. Non dovrebbe, di solito negli spettacoli dove lei da sola fa lo spettacolo live. Questa è sempre Carla Boni. Applausi. Ecco, sentite dal calore degli applausi, dalla veemenza degli applausi, quello che poteva essere un po' l'atmosfera dentro il Teatro Carcano ieri sera. C'è stato anche chi si è elevato per ricordare la memoria di Claudio Villa e che ha in qualche modo richiesto a viva voce un riconoscimento per il grande reuccio della canzone, e nel medesimo tempo c'è stato anche un qualche handicap, se così si può dire. Nel senso, ci sono state delle non presenze molto evidenti, come ad esempio il quartetto Cetra. Non so perché nessuno del quartetto Cetra, che pure sono persone che vivono a Milano, i superstiti, non siano venuti a questa manifestazione. Certo è che al posto loro è stata invitata, stranamente devo dire, la vedova di Titta, il componente del quartetto che è morto, l'attrice Valeria Fabrizi, e a lei è stata consegnata la coppa per il quartetto Cetra. Una cosa un po' strana, non so spiegarvene il motivo, lo posso soltanto registrare e riferirvelo. La Valeria Fabrizi ha però cantato a sua volta una splendida canzone di Jacques Brel, Ne mi quitte pas, cantata in italiano, Non andare via, con esiti non del tutto felici, devo dire. Nel medesimo tempo però ha avuto un enorme successo, come chiunque avrebbe avuto, credo, se si fosse presentato in quella sala ieri sera, in quell'atmosfera, dove c'era veramente la voglia di partecipare, di divertirsi, di ricordare il tempo passato e di tornare attraverso le note musicali a quello che era il tempo di 30 anni fa. Quello che sentiamo adesso chi è? Questo è invece Gino Latilla in I Cavalieri del Cielo. Preurlatori. Va bene, allora Sandro, io adesso ti devo salutare. Saluto anche io tutti quanti. Queste belle voci che ci hai fatto sentire, a me ricordano quando ero piccolina, piccola. Credo che per molti di noi, appunto, che sono sui 35-40 anni. Speriamo di aver fatto piacere alle nonne in ascolto, che sappiamo che Radio Popolare ne ha tante ascoltatrici. Speriamo. Più nonne che nonni. Grazie a Sandro Avanzo. Un saluto. Noi siamo quasi in chiusura, purtroppo non riusciamo a collegarci con Firenze perché la conferenza stampa del professor Max Gallo è in onda, stavo dicendo, è in corso proprio in questi istanti mentre vi parliamo, quindi sentiremo i nostri inviati probabilmente più tardi nell'edizione in breve delle notizie alle 15.30. Siamo invece in collegamento con i nostri inviati all'Assemblea Nazionale dei Delegati CGL, CISL e UIL, Letizia Mosca e Franco Ciappa. Pronto Letizia? Proprio da pochissimi minuti questa due giorni di assemblea, doveva essere un'assemblea nazionale dei delegati di tutte le categorie, unità di tutti e tre i sindacati per discutere sul costo del lavoro, la trattativa con governo e sindacati inizierà giovedì, quindi giovedì al